Letture di Radio 24. I treni delle Tre Nord, società nata lo scorso mese di maggio dalla fusione tra Ferrovie Nord e la divisione lombarda di Trenitalia, sono tristemente noti ai pendolari lombardi per i continui ritardi. Ma ora sono anche nel mirino di Lega Ambiente per lo stato di degrado dei treni e i frequenti guasti all'aria condizionata e alle toilette. L'amministratore di Trenord si difende dicendo: siamo in linea con l'Europa, ma negli altri paesi europei, perlomeno i treni, ogni tanto, arrivano puntuali. Sul fascicolo rosso, archiviato nella sede lombarda di Lega Ambiente, c'è scritto Binario Caldo, un dossier che metterebbe spalle al muro Trenord. Tanto è bastato per portare ai ferri corti la società che gestisce il trasporto locale e gli ambientalisti. Uno scontro di cifre con cui Legambiente denuncia lo stato di degrado dei convogli, dalle toilette fuori servizio all'aria condizionata non funzionante, dal riscaldamento inesistente alla pulizia da terzo mondo. Insomma, una situazione al limite della decenza, confermata dai dati raccolti e rielaborati da Dario Balotta, responsabile trasporti di Legambiente. I guasti più frequenti sicuramente riguardano i servizi igienici inaccessibili. Nell'88% dei casi il problema non viene risolto in meno di 25 giorni e il treno rimane in stand-by. Tra i disservizi più comuni, pure il mancato funzionamento dell'aria condizionata, riparata nell'82% delle volte in 30 giorni, o la cosiddetta sfaccettatura delle ruote, che costringe il 65% delle carrozze a lunghi stop in officina. È aumentata la produzione dei treni, sottolinea Balotta, ma c'è stato un netto incremento dei guasti e un'incapacità di tenere a livelli accettabili la manutenzione. Servono assunzioni nella manutenzione e un'efficace programmazione dei servizi. Il sistema è stressato perché si usano treni nuovi per collegamenti inutili, come il Malpensa Milano Centrale, 51 treni al giorno vuoti, sottratti ai pendolari. Pronta la difesa di Giuseppe Biesuz, amministratore delegato di Trenord, che contesta lo studio degli ambientalisti. Nella manutenzione ordinaria siamo perfettamente in linea con il resto d'Europa. I treni richiamati in officina escono entro 24 ore. Per i controlli periodici, ogni 6 mesi per le carrozze e 100.000 km per le motrici, i tempi si allungano, ma è normale. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giuseppe Spatola, Treni guasti, il calvario dei pendolari, dal Corriere della Sera del 4 giugno. Letture di Radio 24. Da qualche giorno sui muri del capoluogo lombardo campeggiano dei manifesti con lo slogan No all'occupazione israeliana di Milano. La campagna di protesta antisionista contro la rassegna israeliana prevista a partire dal 12 giugno è stata presentata nei giorni scorsi dall'ISM, International Solidarity Movement Italia. A darne notizia, George Galloway, ex deputato inglese, animatore di Viva Palestina, Gada Carmi, palestinese, Gianni Vattimo, filosofo, europarlamentare di Pietrista, e Alfredo Tradardi, coordinatore di ISM Italia, a rappresentare la mobilitazione che culminerà domenica 12 giugno con la controoccupazione palestinese di Piazza Duomo. Guest star, centri sociali, militanti di Freedom Flotilla, diversi leader delle comunità islamiche più radicali, antagonisti e antisionisti assortiti raggruppati nell'ISM Italia, che annunciano di portare fin sotto le guglie della Madonnina le loro bandiere palestinesi e filo Hamas. Insomma, dopo il buongiorno, già grandina a Milano sulla testa d'argento di Giuliano Pisapia. Per il sindaco ex Rifondarolo e la sua dolce primavera, che ha stracciato il centrodestra in versione morattiana, arriva la resa dei conti, inaspettata e in largo anticipo anche sulle più maliziose previsioni. E il confronto, per usare lo slang piacione del primo cittadino che ha sostituito il rosso comunista con il più rassicurante arancione in tonalità Buddha Zen, non sarà certo un pranzo di gala. Su Facebook, la parte più dura e tosta dei suoi elettori sta lanciando appelli poco rassicuranti. Non possiamo permettere, messaggiano, che Piazza Duomo dia ospitalità a Israele, a questa sottospecie di Stato. Parole e musica che paiono composte a Teheran, dai barbuti tagliagole di Ahmadinejad. Altri sono ancora più chiari. Sentite cosa scrive nel suo sito un centro sociale. I responsabili della pulizia etnica della Palestina, i criminali di guerra responsabili dei continui massacri a danno del popolo palestinese, si apprestano a essere ricevuti, con tutti gli onori, dalle autorità locali che si riconfermano complici di questa politica disgustosa e immorale. Impedire che i criminali di guerra israeliani, con il loro codazzo di intellettuali razzisti, occupino la piazza del Duomo di Milano è un imperativo morale e politico. Il pandemonio va spiegato. Alla fine dello scorso anno, il presidente della regione Lombardia, Roberto Formigoni, insieme a Gideon Meir, ambasciatore di Israele in Italia, aveva annunciato che un padiglione di circa 900 metri quadri sarebbe stato installato in piazza del Duomo di Milano. Un investimento di 2,5 milioni di euro per dare un'immagine di Israele diversa da quella di uno Stato interessato da una situazione di conflitto. Così, dal 12 al 23 giugno, Milano ospiterà la grande rassegna dal titolo «Israele che non ti aspetti». Ci saranno lo scrittore David Grossman, la pop star Noah, una mostra sulle architetture dei kibbutz, incontri con i musicisti, personalità della cultura, dell'arte figurativa e della scultura, e poi seminari su Israele e il Medio Oriente. Insomma, una vetrina pacifica e di dialogo per mostrare a tutti l'unexpected Israel. Beh, alcuni se l'aspettavano e come. In prima fila antagonisti e ultrascomunisti, che minacciano feroce resistenza contro l'occupazione sionista. Per loro Milano sarà come la Cisgiordania e Piazza Duomo la striscia di Gaza. Non c'è nulla da aspettarsi da Israele, avvertono quelli dell'ISM. A eccezione degli esiti inevitabili delle sue politiche di massacro, direttamente legate alla natura razzista del sionismo. Infine, la promessa. Israele e i suoi complici si aspettino un'azione determinata e decisa per impedire questo scempio e a impedire questo evento israelo-milanese. Minacce di azioni di guerriglia che la questura prende sul serio, tanto da valutare l'ipotesi di cancellare l'intera settimana pro-Israele e spostarla da Piazza Duomo al chiuso. Ecco, il liberatore Pisapia è avvertito. Il vento del cambiamento gentile rischia già di trasformarsi in violento uragano e il bel arancione stringersi nel nero fumo delle Molotov. Prenderà le distanze il sindaco? Di più, condannerà senza reticenze questi folli annunci di guerra che arrivano da una scheggia, impazzita ma pericolosa, del suo elettorato? Occorrono segnali chiari e non solo da Pisapia. Lunedì, dopo il comizio in piazza, il Comitato contro l'occupazione israeliana si è spostato a dibattere indoor, nel vicino Auditorium San Carlo, sala gestita dall'Ordine religioso dei Servi di Maria. Quello di Padre Turoldo, per capirci. Un'altra stranezza in una città dove il suo cardinale gioisce alla vista di Piazza Duomo colorita d'arancione e per il vento della nuova primavera, arrivato con Pisapia. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Luigi Sant'Ambrogio, La Milano di Pisapia contro la festa di Israele, da Libero del 7 giugno.